caracol, su tuo vino noi siamo la libertà. Come monti le foreste, come aquile dal cielo, noi siamo la libertà. Noi cantori di un tempo stessa età, di qualcosa che non è la loro realtà. Noi guerrieri contro chi vuole ammazzare la tua voglia di guardare nel futuro. La tua vela, camerata, benvenuto noi, ti salutiamo, fai. Hanno riso dei tuoi sogni, hanno intanto la tua gioia, noi siamo qui con te. I loro idoli cadranno nel buio, Angel Gear ti suonerà. Con canzoni di lotta e di vittoria, tornerà la libertà. Che oramai no, non lo sa più. Siamo pazzi, poi domani piangerà, sempre in cerca di qualcosa che non ha. Rideremo di lui come mai. Tutti dai! Grazie.